sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Questa è la mia storia e io sono qui. I diari di Voi siete qui, di Matteo Caccia. In collaborazione con l'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santostefano. Si era fatto tardi, toccava arrivare verso le 11, perciò ci siamo messi a correre con i piedi massacrati e con le ultime energie abbiamo preso la corriera per Roma dopo 5 minuti dal nostro arrivo. E così, tutti stanchi ma contenti, siamo arrivati a casa. Buongiorno a tutti, questo è un sabato, è il sabato 3 di gennaio, è il primo sabato dell'anno. Pensa quanti ce ne saranno davanti, eh? Adesso sto dicendo una di quelle banalità, però se uno la pensa così, è il primo sabato del 2015 e davanti ci saranno 4, 8, 12, quanti? 40, 50, una 50, 51, sono 51 settimane, grazie a Maria Lucchetti che è sempre precisissima. È la prima puntata di Diari di Voi siete qui di questo anno, del 2015, e lo sapete ormai è anche l'ultima, nel senso che abbiamo di fatto chiuso questa stagione di Voi siete qui e chiuso questa stagione dei Diari di Voi siete qui al 31 di dicembre, anche se siamo andati avanti fino al 2 di gennaio, e quindi questa è l'ultima puntata, e con questa ultima puntata io vi voglio salutare con due storie. Una, il diario, che è un diario particolare perché è un diario proprio come ce lo manda lui, Alberto, un diario scoutistico, cioè evidentemente forse aveva come compito quello di farlo, un diario di un giovane scout degli anni 50 che è Alberto, che abbiamo già sentito a Voi siete qui una o due stagioni fa, che ci ha inviato questo diario ambientato tra il 58 e il 61. La seconda parte invece dei diari di Voi siete qui, dopo il traffico, sarà affidata come al solito all'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santostefano, che ci ha mandato una storia molto particolare, una storia ambientata durante la guerra che parla di donne e di prigionia. Ma partiamo invece con dopo la guerra, sono gli anni 50 e Alberto è un giovanissimo scout. Novembre 1958, morte di Papa Pio XII. Gran lutto tra gli scout. Papa Pio XII è morto a Castel Gandolfo. Tutti noi scout porteremo il lutto per 3 mesi, o fino a quando eleggeranno un nuovo papa. La parrocchia per il lutto fa fare in un cortile a tutte le associazioni un rosario ogni sera. 4 novembre 1958, incoronazione Giovanni XXIII a Roma. Questa mattina il programma diceva che si sarebbe andati all'altare della patria. Invece si andò dal nuovo pontefice. L'appuntamento fu alle 8:15, venne quasi tutto il riparto. Si andò dopo aver preso il tram e un pezzo di strada a piedi in una piazza di una chiesa. Lì erano radunati tutti i riparti di Roma, eravamo circa 700 esploratori. Andammo nella chiesa, ascoltammo la messa. Dopo che fu finita ci incamminammo verso San Pietro. Giunti lì, dove c'era una gran folla, ma gli scout avevano un posto riservato, dopo un po' apparve il nuovo papa, che era stato appena incoronato. E benedì la folla, noi compresi. Dopo che fu rientrato, tutti i riparti tornarono a casa. Noi ritornammo a casa a piedi. Roma, 2 novembre 1959, prima riunione dei capi. Oggi ho fatto la prima riunione del Consiglio dei Capi e dei Vicecapi. E io, aggiunto da una settimana, sono diventato vicecapo della mia squadriglia, le Aquile. Ma ho ricevuto una notizia che davvero non mi aspettavo. Mi è stato proposto di divenire capo squadriglia di una nuova squadriglia che si sta realizzando. Non so se accetterò, perché credo che non sono all'altezza di divenire capo, ma bisogna aspettare. Le proposte sono buone e avrò molto aiuto da parte del mio, ora, capo squadriglia Renzo, che si sente grande adesso, che sono uno squadrigliere e divento capo squadriglia. Ma è ancora tutto da realizzare, si vedrà in futuro. 30 ottobre 1960, gita avventurosa a Monte Gennaro. Questa di oggi è stata una delle gite più avventurose che io abbia mai fatto finora. Il perché lo dirò adesso. In ritardo ho dovuto fare una corsa per raggiungere i miei compagni alla chiesa, dinanzi la stazione. Ascoltata la messa, siamo partiti per la stazione di Marcellina, che è ai piedi del Gennaro. Eravamo in 9 in tutto e ne abbiamo passate delle belle. Arrivati alla stazione ci siamo dimenticati di guardare l'orario e poi ho dovuto fare un'altra cosa per fermare l'autobus per Marcellina, ma non ci sono riuscito. Poi, da Marcellina, abbiamo dato l'assalto al Gennaro. Il tempo non era bello e subito prendemmo la prima pioggia con l'aiuto di una mappa e di una bussola, però siamo saliti per un canalone che si arrampicava su per il monte. e durante il tragitto abbiamo preso due forti acquazzoni e se ne prendevamo un altro qualcuno si sarebbe preso una polmonite. Saliti ad una certa altezza ci siamo inoltrati tra le nuvole con una forte umidità, ma alla fine siamo arrivati alla meta, che era un grandissimo prato esistente chissà come in una piccolissima valle nei pressi della cima. A destra, in fondo al pratone, c'era una costruzione che una volta era una chiesetta, molto piccola ma tanto utile. Lì infatti abbiamo preparato un fuoco dove ci siamo riscaldati e abbiamo mangiato al trappè. Nel pomeriggio abbiamo prelevato tracce, poi, in attesa che si asciugassero, abbiamo fatto trasmissione Morse. Poi abbiamo lasciato il pratone per tornare a Marcellina, ma qui è successo il dramma. Le nuvole che ci circondavano e noi che ci stavamo dentro, miste ad una fittissima nebbia, non facevano vedere ad una distanza di 3-4 metri. E così abbiamo perso il sentiero e ci siamo attardati a ritrovarlo. Poi, visto che tra quella nebbia non si vedeva niente, siamo scesi ad azimut con la bussola alla mano, dritti al naso verso sud. Dopo un'ascesa terribile tra massi di pietra, siamo riusciti a scendere sotto le nuvole e così tutto è apparso chiaro davanti a noi. Vedevamo sotto di noi le luci di Marcellina che sempre più ci si avvicinavano e dopo un ultimo sforzo siamo riusciti ad incrociare la mulattiera che va dritta al paese, ma si era fatto anche tardi e se non ci sbrigavamo a correre giù al paese toccava arrivare verso le 11. Perciò ci siamo messi a correre con i piedi massacrati e con le ultime energie abbiamo preso la corriera per Roma, dopo 5 minuti dal nostro arrivo. E così, tutti stanchi ma contenti, siamo arrivati a casa. È sulle note di Eddie Vedder, che tutti ovviamente riconoscono nel film, come colonna sonora del film Into the Wild, proprio perché Alberto si era inoltrato Into the Wild, nella parte selvaggia di quella montagna con i suoi amici scout, abbiamo il telefono, lui, protagonista di questa storia, che ci ricorda esattamente come andò. Pronto Alberto, buongiorno. Sì, buongiorno Matteo. Come stai? Bene, bene Matteo. Noi ci siamo già sentiti Alberto, vero? Sì, lo ricordo per chi magari... novembre del 2012. Per la precisione, per chi magari non si ricordasse, Alberto, come sta tua moglie? Tu la accudisci tutti i giorni, giusto? Sì, bravo, ricordi. Sì, è vicino a me qua. No, sta abbastanza bene. Bene. La situazione è stazionaria. È stabile, va bene. È cronicizzata così. Tu Alberto, correggimi se sbaglio, tu eri infermiera nella vita, giusto? Sì. Perfetto, ammazza, per certe cose ho una memoria infallibile. È incredibile. Alberto, invece, grazie ovviamente per le pagine di diario che ci hai mandato. Torniamo un attimo a quell'epoca. Quanti anni avevi quando eri scout? Io sono entrato nei Lupetti che avevo 7 anni e ci sono rimasto fino a 17 anni, circa 10 anni. Quindi 10 anni, e gli anni erano quelli delle date, che aspetta, rileggo. Tra il 56 e il 66 a questo punto. 63 ufficialmente. Ok. Diviso perché avevo già iniziato con un altro gruppo, io prima di questo gruppo qua, quindi già ero stato scout un paio d'anni prima. Okay. Comunque, sì, quegli anni là, gli anni 50. Gli anni 50. Com'era essere scout in quegli anni? Voglio dire, adesso gli scout li si vedono in giro e più o meno sono super attrezzati, hanno delle tende moderne, insomma, sono molto ben equipaggiati. All'epoca com'era invece? No, noi non eravamo affatto equipaggiati, tra l'altro eravamo il gruppo di bambini di un quartiere abbastanza povero di Roma, per cui non ci avevamo neanche quello che avevano gli altri, però se la cavavamo bene, devo dire. Lo spirito dell'avventura c'era tutto, Quello dell'esploratore proprio. Sì, è vero. Proprio. Perché di fatto lo scout, voi a un certo punto proprio usi il termine gli esploratori, cioè è una categoria? Sì, esploratore, sì. Beh, il significato, l'esploratore è colui che va avanti, quello che trova nuove strade, no? Certo. Quindi l'idea di un bambino, anche negli anni 50, l'idea di un bambino che fa lo scout è quello di esplorare nuovi territori, giusto? Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, no, ma è una delle più belle organizzazioni di educazione dei bambini. Io ho sempre trovato il sistema scoutistico educativo eccezionale, guarda, io mi sono proprio innamorato. Quindi poi tu hai proseguito il percorso e sei diventato anche guida, si chiama così? No, le guide erano le donne. Ah, perdonami, no, maestro, come si dice? Il rover. I capi. Ok, l'hai fatto? Rover si diventava a 17 anni. E tu l'hai fatto? Cioè sei diventato... No, perché io ho già iniziato a lavorare quando avevo 14 anni, non avevo più tempo, quindi dovetti smettere poi. Cominciasti facendo subito l'infermiere o facendo altro? No, io ho lavorato alla RAI un certo periodo come operaio, poi dopo nel frattempo feci il corso da infermiere, ma alla RAI ero precario, non ero fisso, per cui... Lasciai perdere. E invece mi spieghi che cosa vuol dire scendere ad azimuth? Ah sì, è una cosa come dire di topografia. Azimuth si intende un angolo retto, quindi come ti posso spiegare? In realtà andavamo verso una direzione precisa. Ah ok, qua dici stavate scendendo verso il sentiero, dovevamo per forza arrivare tornare verso Marcellina. Sapevamo che Marcellina era a sud della zona sud. Ah, per noi cui andavamo dritti verso perfetto, sud. Andare dritto per dritto verso dove hai deciso sì, di andare. Puoi immaginare che cosa avevamo combinato dentro i cespugli nel sottobosco, sulle rocce, perché non avevamo più il sentiero. Quindi. In una decina di ragazzi, giusto, eravate? Sì, l'alta squadriglia, cioè i vice capo squadriglia e i capi squadriglia. Va bene. È stato il primo diario che ci è arrivato di un'avventura d'infanzia come questo e mi ha fatto piacere raccontarlo, sì, perché era proprio è un piccolo pezzo di vita molto particolare della propria vita e te ne ringrazio. Alberto, in bocca al lupo per tutto. Grazie. Ciao, a presto, buona giornata. D'accordo, ciao. Ciao. I diari di Voi Siete Qui. In collaborazione con l'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. Ed è proprio grazie all'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano che in qualche modo ha preso forma questa sorta di spin-off di Voi Siete Qui del sabato, che è in onda più o meno dal mese di ottobre e che, come vi dicevo, chiude e finisce oggi, così come chiude e finisce questa settimana Voi Siete Qui, e ancora non smetteremo mai di ringraziare voi che avete ascoltato Malato Storie e Radio 24, ovviamente, che ci ha permesso di raccontare tutte queste storie in questi anni. Ma i saluti li abbiamo già fatto ieri, quindi oggi continuiamo a raccontare e raccontiamo appunto quel pezzo dei diari che facciamo in collaborazione con l'Archivio Diaristico Nazionale. La storia che ci ha mandato oggi Nicola, che ci hanno mandato Nicola, Natalia e tutti quelli dell'archivio, è la storia di Severina Rossi. Severina Rossi è una di quelle donne contadine che aveva 20 anni quando scoppiò la guerra, questo dice proprio la scheda su di lei, e l'antifascismo cominciò a trasformarsi in resistenza contro il nazifascismo. Le sue memorie quindi in questo diario rievocano prima di tutto la società in cui Severina era cresciuta, quindi il mondo generoso, pulito di Soresina, che è il paese dove lei cresce, che non è lontano da Milano, dei suoi abitanti che sono piuttosto poveri. Dopo 2 anni di guerra, la ragazza, piena di slanci e di ideali di giustizia, entra nella resistenza con la semplicità di un gesto quotidiano. Svolge compiti di staffetta nelle formazioni socialiste e a un certo punto viene imprigionata. Ed è qui, è nel carcere che si ambienta questo pezzo di diario. Poi, quando il Comitato di Liberazione il 26 aprile 45 ordina che i prigionieri siano scarcerati, Severina, insieme con gli altri detenuti, partecipa all'insurrezione e alla liberazione di Bergamo e infine ritorna a Soresina, dove la popolazione l'accoglie come eroina della città. Questo pezzo di diario però è un pezzo in cui di eroico c'è davvero poco. È la notte di Natale, è la vigilia di Natale in realtà, e lei è lì con la sua compagna di stanza, che si chiama Piera, e aspettano che in qualche modo il tempo passi. La mia famiglia aveva una figlia in carcere, una in Germania, un figlio nei dispersi, altre figlie con problemi di disoccupazione e i genitori ormai anziani. Quella notte non dormivo, mi sentivo impotente, colpevole e manchevole nei riguardi dei miei. Piera capì che avevo il morale a terra. Pure le cimici e il freddo erano passati in seconda linea. Tremavo. Lei mi massaggiò la schiena per scaldarmi, come una sorella maggiore. E per farmi cambiare umore, sottovoce, mi cantò Bandiera Rossa, come fosse stata una ninna nanna. Solo chi è stato in carcere per questioni politiche può capirne il valore. Significava che il nostro pensiero e la nostra fede non si potevano imprigionare. Stavamo per addormentarci vagando nei ricordi quando udimmo il fragore dello scoppio di una bomba a mano, il calpestio di passi affrettati, di scarponi in corsa, di gente che urlava, di gente che piangeva. Battendo pugni contro il muro di cella in cella corsero segnali d'intesa e seppi che alcuni coraggiosi già da una settimana premeditavano e organizzavano la fuga. Si fabbricarono una pistola con una scatola di cartone delle scarpe. Chiamarono la guardia di turno con la scusa di un po' di mal di pancia. Favoriti dall'oscurità, lo assalirono, gli tapparono la bocca, lo derubarono del mazzo di chiavi, lo trascinarono in cella, lo spogliarono e uno di essi si travestì. Con le chiavi aprirono le celle degli altri detenuti che, giudicando l'avvenimento una pazzia, rimasero ai loro posti. Stavano aprendo il cancello che divide i due reparti, quello maschile da quello femminile, quando la ronda se ne accorse e diede l'allarme. Fu allora che udimmo le grida di dolore dei detenuti picchiati con violenza selvaggia. «Basta, basta!» qualcuno implorava. Seppi poi di costole e di ossa rotte. La voce del carcere ci informò che i ribelli vennero posti in anguste cellette sotterranee per punizione, in isolamento, e a regime rigido che significava pane ed acqua, fino al 25 di marzo, il giorno del mio compleanno. Il giorno seguente ai fatti, all'alba, fu celebrata la messa e per la prima volta mi scesero le lacrime. Era il giorno di Natale. Nei giorni precedenti mi ero lavata un paio di calze, volevo indossarle pulite per quella festa, ma invece non si asciugarono e si erano ammuffite. Erano giornate uggiose, buie. Fuori era di nuovo nevicato e la neve aveva ostruito la bocca di leone impedendo il passaggio della luce dalla finestra. Il rigagnolo d'acqua si era impigrito sul pavimento incolore e segnalava il raggelarsi della neve. Sentimmo un gran torpore nelle ossa e ci mettemmo rattrappite come due ragni, ognuna sul proprio pagliericcio, per tutto il giorno, senza dirci una parola. Ma avevo una gran voglia di lanciare un urlo selvaggio e forte, come una belva colpita a morte. Spero che ti potrò confidare tutto, come non ho mai potuto fare con nessuno, e spero che sarai per me un gran sostegno. Queste sono le righe con cui Anna Frank inizia il suo diario, è il 12 giugno del 1942. Quando preparavo questa puntata, l'ultima puntata dei diari di Voi Siete Qui, mi chiedevo qual è stato il diario, diciamo, più conosciuto della storia della letteratura, o almeno il diario che io mi ricordo meglio, e ho pensato al diario di Anna Frank. Spero in qualche modo che queste puntate dei diari di Voi Siete Qui abbiano sortito questo effetto, a me l'hanno fatto, mi è venuta quantomeno voglia di cominciare a tenerne uno, anche se non ne sono particolarmente capace. L'effetto di poter avere una sorta di non un amico, ma un confidente, qualcuno che non siamo altro che noi su un foglio bianco, che tirando fuori le cose che ci succedono ci aiutano a vedere e forse a capire un po' meglio chi siamo, e spero che tutte queste storie abbiano contribuito a quello. Io ringrazio ancora per l'ultima volta l'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano e tutte le persone con cui abbiamo collaborato in questi mesi. Ringrazio ovviamente Miriam Lucchetti dall'altra parte, Paolino Corleoni, Tiziano Bonini e Mauro Pescio. Ringrazio Radio 24 che ci ha fatto fare, raccontare e sperimentare. Vi saluto, vi do un grande in bocca al lupo per tutto. Ringrazio soprattutto Alberto e Severina, perché le storie di oggi erano le loro, e anche loro sono due punti rossi su una mappa.